Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat. Stasera leggiamo due racconti. Uno è L'avvoltoio di Franz Kafka e l'altro è La cagnolina bianca di Charles Nodier. Entrambi sono raccolti in un'antologia che si chiama Animali funesti, pubblicata da AB Editore. Buon ascolto e buona serata. L'avvoltoio di Franz Kafka. Era un avvoltoio che mi stava beccando i piedi. Aveva già ridotto in brandelli gli stivali e i calzini, e adesso mi stava prendendo a beccate i propri piedi. Ogni volta vi si avventava sopra famelico, mi svolazzava intorno, inquieto, senza sosta, e poi proseguiva il suo lavoro. Un signore si trovò a passare da quelle parti, rimase a guardare per un po' e poi mi chiese perché lo tollerassi. Sono impotente, risposi. È arrivato e ha cominciato a beccarmi. Naturalmente volevo cacciarlo via, ho provato anche a strangolarlo, ma un animale del genere non ha tale forza. È stato anche sul punto di saltarmi sul viso, allora ho preferito sacrificare i piedi, solo che ora sono quasi dilaniati. E lei permette di farsi torturare in questo modo? Esclamò il signore. Una scoppiettata e l'uccellaccio è spacciato. Davvero? Domandai. E vuole occuparsene lei? Volentieri, disse l'uomo. Devo solo andare a casa a prendere il fucile. Può aspettare ancora una mezz'oretta? Non saprei, risposi, irrigidendomi un momento per il dolore. Poi dissi: La prego, ci provi comunque. Bene, aggiunse, farò presto. L'avvoltoio era rimasto in ascolto tutto il tempo senza muoversi, gettando occhiate vaghe tra me e il signore. Adesso mi stavo rendendo conto che aveva capito tutto. Si alzò in volo, fece un ampio giro, si piegò all'indietro per prendere l'aria in corsa e, come un lanciatore di giavellotto, mi conficcò il becco nella bocca, trapassandomi. Cadendo riverso a terra mi sentii sollevato, vedendolo annegare irrimediabilmente nei flutti di sangue sgorgante dai miei visceri. La cagnolina bianca di Charles Nodier. Si racconta che verso l'inizio del XVII secolo, nella foresta di Bondy, sul ciglio della strada che attraversa il bosco da est a ovest, vi fossero due grandi querce. Nella cavità di una di esse si vedeva sempre una graziosa cagnolina di un candore abbagliante che portava al collo un collare in pelle rosso, arricchito da una fibbia e dai chiodi d'oro. Questa bestiolina sembrava dormire e si svegliava soltanto quando qualche passante, sorpreso di vedere un animale così delizioso smarrito in mezzo al bosco, si avvicinava per accarezzarla. Ma anche se si cercava di sorprenderla con destrezza, ella si alzava nell'istante in cui le si stava per poggiare la mano addosso, poi si allontanava di qualche passo e scompariva nel bosco. E se invece di seguirla si passava oltre, ella ritornava al suo posto, guardava da lontano e scodinzolava. Se si faceva il gesto di tornare indietro, si lasciava avvicinare, assumendo l'aria di chi sta aspettando, ma subito scappava via come la prima volta, per recarsi di nuovo con ostinazione allo stesso posto. Qualcuno, stanco di ritornare inutilmente, le lanciava delle pietre, ma sebbene la raggiungessero, ella restava impassibile come fosse di marmo. Persino i colpi di fucile dei guardiacaccia non la smuovevano e, nonostante i loro proiettili la colpissero in pieno, non la ferivano. Insomma, nei dintorni era risaputo che quella cagnolina era, se non altro, uno scherno del diavolo, se non addirittura il diavolo in persona. L'aneddoto seguente seminò più che mai il terrore nel vicinato. La notizia si diffuse, poi anche in tutto il resto della contrada. Un ragazzino di 10 anni fu inviato dai suoi genitori nel bosco a prendere la legna. All'ora in cui la sua famiglia si riuniva per la colazione, questi non tornò, ma siccome gli avevano raccomandato di non passare per la strada da est a ovest, e considerato che questo giovane si mostrava remissivo agli ordini dei suoi genitori, non c'era da preoccuparsi, e così ognuno tornò alle proprie faccende. All'ora di pranzo ancora non lo si vedeva tornare, e cominciarono quindi a sospettare qualche sventura. Infine, giunta l'ora della cena senza che egli fosse ritornato, suo padre, Jean Fortin, disse a sua moglie: Cara, accende la mia lanterna. Bambini, datemi il mio fucile a due canne e cercate le munizioni e il mio fiaschino. Vado a cercare vostro fratello e se non dovessi rientrare per questa sera, andate a letto, perché sono deciso a battere tutta la foresta e a tornare solo quando avrò trovato Celestin. Così si chiamava il giovane scomparso. Padre, disse il primogenito, vigoroso giovane di 20 anni, vengo con voi. Vieni solo se hai abbastanza coraggio, rispose Fortin. Ti avverto che andrò dritto alle due querce. Non ci pensate proprio, padre mio, replicò Tomà. Allora vieni o resti, riprese Fortin. Quanto a me, sono disposto a perire pur di chiarire questa diavoleria. Devo ritrovare il mio Celestin. Di sicuro sarà corso dietro a quella maledetta cagna. Ebbene, la seguirò anch'io. Fosse il diavolo, avrò le sue corna o mi trascinerà con sé. Tomà, disse, partiamo. Tutta la famiglia tremava, ma nessuno ebbe la forza, né forse il pensiero, tanto erano spaventati, di opporsi a quel temerario intento. Infine partirono. La notte era delle più buie. Invano Tomà sporgeva in avanti la sua lanterna. Picchiavano continuamente contro gli alberi, si ingarbugliavano nei rovi, ritornavano ogni volta sui loro passi, credendo di trovare una via d'uscita. Infine finivano per smarrire la strada ancora di più. Infine giunsero sulla strada dell'Ovest, e allora poterono camminare più liberamente. Era già un'ora che marciavano in silenzio, porgendo l'orecchio, sperando di sentire la voce di Celestin, senza che alcun rumore potesse rischiarare il loro cammino. Nemmeno le querce fatali apparivano. Tomà, disse a suo padre, credo che le abbiamo superate. No, disse Fortin, ho guardato benissimo a destra e a sinistra e non ci siamo ancora arrivati. Tuttavia, credo che siamo andati oltre. Non scoraggiamoci, riprese il padre. Continuarono a camminare per mezz'ora, ma dei due alberi non vi era ancora traccia. C'è una cosa che mi sembra molto strana, disse Fortin. A quest'ora dovremmo essere dall'altra parte del bosco. Non ci vuole più di un'ora e un quarto per attraversarlo tutto, e noi siamo in cammino già da un'ora e mezzo, per cui dovremmo aver già sorpassato le due querci. Torniamo indietro, disse Tomà. Torniamo indietro, disse Fortin. Ma in quel preciso momento soffiò una raffica di vento così forte che furono obbligati a reggersi i cappelli. Lo straordinario rumore che faceva nel fischiare tra i rami li spinse ad alzare lo sguardo. Ecco le querce, disse Tomà, tremando come una foglia, e in effetti Fortin riconobbe due grandi alberi che si delineavano nell'ombra e che sembravano essere distanti non più di 20 passi. Andiamo, Tomà, disse Fortin con voce sicura, malgrado non riuscisse più a rassicurare nemmeno se stesso. Andiamo e ora tocca a me camminare avanti. Detto ciò, armò il fucile e tirò dritto verso gli alberi. Tomà lo seguì. Fecero circa 300 passi e le querce, che credevano così vicine, si trovarono alla stessa distanza di prima. Camminarono ancora, ma man mano che avanzavano sembrava che gli alberi si allontanassero. La foresta pareva non finire più. Fortin sentì dei sibili provenienti da ogni lato, come se il bosco fosse pieno di serpenti. Di tanto in tanto sotto i suoi piedi roteavano dei corpi ignoti, e gli artigli parvero volergli cingere le gambe. Ma lo sforarono appena. Un odore infetto lo circondò. Una serie di esseri sembravano muoversi intorno a lui, ma egli non sentiva nulla. Estenuato dalla fatica, si voltò per proporre a Tomà di sedersi un istante. Tomà non c'era più. Credeva di scorgere attraverso dei cespugli l'occhio della lanterna. Riconobbe anche il fondo del pantalone bianco di suo figlio. Lo chiamò. Gli rispose una voce sconosciuta. «Vieni, ti aspetto!» Egli esitò. Tuttavia avanzò. La luce scomparve presto. La intravide più lontano, da un punto in cui qualcuno gli gridava ancora «Eccomi! Vieni, ti aspetto!» Fortin non riconosceva quella voce, non era quella di Tomà né quella di Celestin. La lanterna si spense del tutto, non sapeva più dove si trovasse. Voleva ritornare sui suoi passi, ma non poté ritrovare la strada che aveva appena percorso. Un sudore freddo gli attraversò tutto il corpo. Delle sostanze aeree volteggiavano in continuazione davanti al suo viso e intorno a lui. Non le vide, ma avvertì un alito maleodorante, ardente e un'aria fredda, come se qualche uccello dalle straordinarie dimensioni stesse agitando le ali sopra di lui. Cominciò a pentirsi di essersi addentrato nel bosco. Il coraggio lo abbandonò, il fucile gli scivolò dalle mani. La stanchezza e i brividi di freddo lo costrinsero ad appoggiarsi a un albero che si trovava lì vicino. In quel terribile momento, raccomandò la sua anima a Dio e tirò fuori dalla tasca un crocifisso che il devoto uomo portava sempre con sé. Ma le sue forze lo abbandonarono, si gettò ai piedi dell'albero e presto perse i sensi. Era giorno inoltrato quando rinvenne dal suo svenimento. Le forze ritornarono, forse grazie al sole che gli scandava le membra. Fortin si guardò intorno, vide la sua arma spezzata e macerata, come se dei denti l'avessero frantumata. I pezzi di ferro che la componevano sembravano carbonizzati. Sugli alberi erano incisi col sangue una serie di caratteri magici e spaventosi. I rami erano distrutti, le foglie annerite e secche. L'erba era pestata e ricoperta di brandelli di vestiti. Fortin riconobbe quella dei suoi due sciagurati figli e pensò che anche lui sarebbe toccata la stessa sorte se non fosse stato armato di un segno divino che aveva salvato soltanto lui dal demonio. Terrorizzato, si alzò e corse come un folle verso casa. Una volta raccontato il fatto, fu verificato dalle autorità che insieme agli arcieri andarono a visitare i luoghi. Il racconto di Fortin fu riconosciuto come vero. Rinvennero tutte le tracce di un orribile pasto, delle danze e dei giochi della compagnia diabolica. Invano vollero fare delle ricerche, ma quando la cagnolina comparve, immediatamente tutti si raggelarono dal terrore, riconoscendo che quel luogo era abitato dal demonio, che vi si tratteneva in maniera inespugnabile, si decise di piantare delle croci tutto intorno affinché questo segno potesse impedirgli di estendere il suo dominio. Da allora non si è più sentito parlare di incidenti nell'altra parte del bosco, ma guai a chi osava oltrepassare i limiti.